Come in borsa, quando c'è una tendenza al rialzo, se ne avvantaggia un intero comparto di titoli, così un certo numero di artisti disprezzati beneficiavano della reazione, o perché non meritavano quel disprezzo, o semplicemente perché ne erano stati colpiti, il che consentiva di dire, esaltandoli, qualcosa di nuovo. E s'andava persino a cercare, in un passato isolato, questo o quel talento indipendente sulla cui reputazione il movimento attuale sembrava non dover influire, ma di cui si diceva che qualcuno dei nuovi maestri citasse il nome con favore. Spesso era semplicemente perché un maestro, chiunque egli sia, e per quanto esclusiva debba essere la sua scuola, giudica in base a ciò che sente, rende giustizia al talento ovunque esso si trovi, e magari anche a qualcosa di meno del talento, a qualche piacevole ispirazione assaporata in altri tempi, connessa a un momento amato della sua adolescenza. Altre volte, perché certi artisti d'altre epoche hanno realizzato, in un semplice frammento, qualcosa di simile a ciò che il maestro ha capito a poco d'aver voluto fare lui stesso. In quell'antico vede allora una sorta di precursore. Ama in lui, sotto tutt'altra forma, uno sforzo momentaneamente, parzialmente fraterno. Ci sono frammenti di Turner nell'opera di Poussin, una frase di Flaubert in Montesquieu. Altre volte ancora, la voce concernente la predilezione del maestro era il risultato di un errore, nato non si sa dove e contrabbandato nella scuola. Ma il nome citato beneficiava allora della firma sotto la cui protezione era entrato giusto a tempo, perché se nella scelta del maestro c'è qualche libertà, un gusto vero, le scuole invece non si muovono che nella direzione indicata dalla teoria. Così lo spirito umano, seguendo il suo corso abituale che procede per digressioni, obliquando una volta in un senso, la volta successiva nel senso opposto, aveva gettato dall'alto nuova luce su un certo numero d'opere cui il bisogno di giustizia o di rinnovamento o il gusto di Debussy o il suo capriccio o qualche osservazione che forse non aveva mai fatta, avevano aggiunto quelle di Chopin. Esaltate dai giudici nei quali si riponeva ogni fiducia, beneficiando dell'ammirazione suscitata dal Peleas, esse avevano acquistato un nuovo splendore e anche coloro che non le avevano riascoltate erano a tal punto vogliosi d'amarle che lo facevano loro malgrado, pur illudendosi di farlo liberamente. Ma Madame de Cambremer le Grandin rimaneva per una parte dell'anno in provincia. E anche a Parigi, essendo di salute cagionevole, viveva molto in camera sua. È vero che questo inconveniente si rifletteva soprattutto nella sua preferenza per espressioni che Madame de Cambremer credeva alla moda, mentre si sarebbero adattate piuttosto al linguaggio scritto, sfumatura che lei non coglieva perché le prendeva più dalla lettura che dalla conversazione. E la conversazione è necessaria non tanto alla conoscenza esatta delle opinioni, quanto a quella delle nuove espressioni. Tuttavia, la riabilitazione dei notturni non era stata ancora annunciata dalla critica. La notizia si era diffusa solo attraverso conversazioni fra giovani. Madame de Cambremer le Grandin ne era tuttora all'oscuro. Mi compiacqui di metterla al corrente, ma rivolgendomi per questo a sua suocera, come quando a biliardo per colpire una palla si gioca di sponda, del fatto che Chopin, ben lungi dall'essere fuori moda, era il musicista preferito da Debussy. «Davvero divertente», commentò la nuora con un sorriso arguto, come si trattasse d'un paradosso escogitato dall'autore del Peleas. Ciò nonostante, era indubbio che d'ora in avanti non avrebbe più ascoltato Chopin se non con rispetto e addirittura con piacere. Le mie parole, che avevano scandito per lei l'ora del riscatto, dipinsero sul volto della vecchia marchesa un'espressione di riconoscenza nei miei confronti e soprattutto di gioia. I suoi occhi brillarono come quelli di Latude nella commedia intitolata Latude o 35 anni di cattività, e il suo petto aspirò l'aria di mare con quella dilatazione che Beethoven ha così ben sottolineata nel Fidelio, quando i prigionieri respirano finalmente quest'aria che vivifica. Ebbi l'impressione che stesse per posare sulla mia guancia le sue labbra baffute. «Come? Amate Chopin? Ama Chopin! Ama Chopin!» esclamò in un accesso di appassionata rinolalia, così come avrebbe detto «Come? Conoscete anche Madame de Franquetot?» Ma con la differenza che i miei rapporti con Madame de Franquetot le sarebbero stati profondamente indifferenti, mentre la mia conoscenza di Chopin la gettò in una sorta di delirio artistico. L'ipersalivazione non fu più sufficiente. Rinunciando a tentare di comprendere il ruolo di Debussy nella reinvenzione di Chopin, registrò soltanto che il mio giudizio era favorevole. L'entusiasmo musicale si impadronì di lei. «Élodie! Élodie! Ama Chopin!» Il suo seno si sollevò e batté l'aria con le braccia. «L'avevo sentito io che eravate musicista. Capisco bene, artista, come siete che amiate quella musica. È così bella!» E la sua voce era ciottolosa, come se, per esprimermi il suo fervore chopiniano, si fosse riempita la bocca a imitazione di Demostene con tutti i sassolini della spiaggia. Alla fine sopravvenne il riflusso, che giunse sino alla vendetta, inzuppandola, prima che Madame de Cambremer potesse metterla al riparo. E la marchesa ricorse al suo fazzoletto ricamato per asciugare la bava schiumosa di cui il ricordo di Chopin le aveva inumidito i baffi. «Mio Dio!» disse Madame de Cambremer la Grandin. «Temo che mia suocera stia facendo tardi. Dimentica che abbiamo a pranzo mio zio de Chenouville e a Cancan non piace aspettare». «Cancan?» mi riuscì incomprensibile e pensai che forse si trattava di un cane. «Ma quanto ai cugini de Chenouville, ecco qua». Con gli anni, nella giovane marchesa, s'era attutito il piacere che provava a pronunciare in quel modo il loro nome. Eppure, era stato per assaporarlo che a suo tempo aveva deciso di sposarsi. In altri gruppi mondani, quando si parlava dei Chenouville, s'aveva l'abitudine, ogni volta almeno che la particella era preceduta da un nome terminante per vocale, giacché in caso contrario si era costretti ad appoggiarsi sul de, visto che la lingua si rifiuta di pronunciare Madame Chanson, di sacrificare le muta della particella. Si diceva, insomma, Monsieur de Chenouville. Presso i Cambremer vigeva una tradizione inversa, ma altrettanto imperiosa. In ogni caso era le muta di Chenouville a venire soppressa. Che il nome fosse preceduto da mon cousin o da ma cousine, era sempre de Chenouville e mai de Chenouville. Quanto allo zio, padre di questi cugini Chenouville, lo si chiamava oncle, perché a Féterne non si era abbastanza su per pronunciare onc, come avrebbero fatto i Guermantes, il cui voluto biascichio che sopprimeva le consonanti e nazionalizzava i nomi stranieri era non meno difficile da capire del francese antico o di un moderno patois. Chiunque entrasse a far parte della famiglia riceveva immediatamente sulla questione Chenouville un monito di cui Mademoiselle Grandin Cambremer non aveva avuto bisogno. Un giorno, nel corso di una visita, sentendo una fanciulla dire «la zia d'Uzé, lo zio de Rouen», non aveva riconosciuto con la dovuta prontezza i nomi illustri che era abituata a pronunciare «Uzès» e «Rouen». Era stata colta dallo stupore, dall'imbarazzo e dalla vergogna di chi, a tavola, si trova davanti uno strumento di recente invenzione di cui non conosce l'uso e con il quale non osa cominciare a mangiare. Ma quella notte e l'indomani aveva ripetuto estasiata «la zia d'Uzè», con quella soppressione della S finale che il giorno prima l'aveva sbalordita, ma che le sembrava adesso talmente volgare non conoscere che quando una sua amica le parlò di un busto della duchessa d'Uzès, Mademoiselle Le Grandin replicò con malumore e in tono altezzoso. «Potreste almeno pronunciare come si deve, Madame Douzet?» Da quel momento aveva capito che, in virtù della trasmutazione delle materie solide in elementi via via più sottili, il patrimonio considerevole e così onorevolmente acquisito che il padre le aveva trasmesso, la buona educazione ricevuta, la sua assiduità nel frequentare alla Sorbonne i corsi di Caron e di Brunetière e nell'assistere ai concerti Lamoureux, tutto ciò doveva volatilizzarsi, trovare la sua estrema sublimazione nel piacere di poter dire un giorno «mia zia Douzet». Da tale piacere non era esclusa nella sua testa l'idea di continuare a vedere, almeno nei primi tempi successivi al matrimonio, non già certe amiche che amava e che era rassegnata a sacrificare, ma certe altre che non amava e alle quali voleva poter dire, già che era per questo che si sposava, «vi presenterò a mia zia Douzet». E quando vide che ottenere quella parentela era troppo difficile, «vi presenterò a mia zia de Chenouville, vi farò pranzare con gli Houzet». Il matrimonio col signor di Cambremè aveva procurato a Mademoiselle Le Grandin l'occasione di pronunciare la prima, ma non la seconda, di queste frasi, già che l'ambiente frequentato dai suoceri non era quello che aveva creduto e di cui continuava a sognare. Così, dopo avermi detto di Saint-Loup, usando all'uopo un'espressione di Robert, se io infatti nel parlarle attingevo al linguaggio di Le Grandin, lei, obbedendo a una suggestione inversa, mi rispondeva nel gergo di Robert, che non sapeva derivato da quello di Rachel. Congiungendo il pollice e l'indice e socchiudendo gli occhi come se stesse guardando qualcosa di infinitamente delicato che era riuscita a captare, ha una bella qualità di intelligenza. Ne tesse l'elogio con tanto calore che la si sarebbe potuta credere innamorata di lui. E del resto c'era chi aveva sostenuto che un tempo, quando era a Doncier, Robert fosse suo amante, mentre in realtà lo faceva semplicemente perché glielo riferissi e per arrivare a «siete molto legato alla duchessa di Gaumont. Io non sto bene, non esco quasi mai, e so che lei se ne sta confinata in una cerchia di amici scelti, cosa che trovo molto giusta. Così la conosco pochissimo, ma so che è una donna assolutamente superiore». Sapendo che Madame de Cambremer la conosceva appena e per farmi piccolo quanto lei, sorvolai sull'argomento e le risposi che avevo conosciuto assai meglio suo fratello, il signor Le Grandin. A quel nome la marchesa prese lo stesso tono evasivo che io avevo assunto riguardo a Madame de Gaumont, ma aggiungendovi un'espressione di disappunto, perché pensò che l'avessi detto per umiliare non me, ma lei. Era tormentata dalla disperazione d'essere nata alle Grandin. Questo almeno sostenevano le sorelle e le cognate di suo marito, nobili dame di provincia che non conoscevano nessuno, non sapevano niente ed erano gelose dell'intelligenza di Madame de Cambremer, della sua istruzione, della sua ricchezza, delle attrattive fisiche di cui era stata provvista prima d'ammalarsi. «Non pensa ad altro, finirà per morirne», dicevano quelle perfide provinciali, ogni volta che parlavano di Madame de Cambremer con chiunque, ma preferibilmente con un plebeo, vuoi se questi era sciocco e vanesio, per valorizzare, sottolineando la vergogna dell'essere plebei, l'amabilità di cui lo onoravano, vuoi se era timido e perspicace e applicava il discorso a se stesso per concedersi il piacere, pur ricevendolo con cortesia, di infliggergli indirettamente un'insolenza. Ma se credevano di dire il vero affermando questo della cognata, erano invece in errore. La marchesa non soffriva d'essere nata alle Grandin per la semplice ragione che ne aveva perduto il ricordo. Irritata che gliel'avessi restituito, rimase in silenzio, come se non avesse capito, ritenendo superfluo aggiungere precisazioni o conferme alle mie parole. «Non è tanto per i nostri parenti che dobbiamo abbreviare la visita», mi disse Madame de Cambremer madre, probabilmente più disincantata della nuora circa il piacere di dire «Chenouville». Il fatto è che, per non stancarvi con la presenza di troppe persone, il signore, e mi additò l'avvocato, non ha osato far venire sin qui sua moglie e suo figlio. Ci aspettano sulla spiaggia, passeggiando, e cominceranno ad annoiarsi. Me li feci indicare con precisione e corsi a chiamarli. La moglie aveva un viso tondo come certi fiori della famiglia delle Ranuncolacee e accanto all'occhio una voglia abbastanza visibile. E poiché le generazioni degli esseri umani conservano i loro caratteri come una famiglia di piante, lo stesso segno che appariva sul volto avvizzito della madre e che avrebbe potuto contribuire alla classificazione di una varietà sporgeva sotto l'occhio del figlio. La mia premura nei confronti della moglie e del figlio commosse l'avvocato. Parve interessarsi al mio soggiorno a Balbec. «Vi sentirete un po' spaesato, dal momento che qui ci sono soprattutto stranieri». E parlandomi mi fissava perché, poco amante degli stranieri, sebbene ne contasse parecchi fra i suoi clienti, voleva sincerarsi che io non fossi contrario alla sua xenofobia, nel qual caso avrebbe battuto in ritirata dicendo: «Naturalmente, Madame X può essere una donna affascinante, è una questione di principio». Poiché non avevo all'epoca nessuna opinione sugli stranieri, non diedi segni di disapprovazione e l'avvocato si sentì sul sicuro. Si spinse sino a chiedermi di andare un giorno da lui a Parigi a vedere la sua collezione di Lacy Danea e di portare con me i Cambremer, dei quali evidentemente mi credeva intimo. «Vi inviterò con Lacy Danea», aggiunse, convinto che non sarei più vissuto che nell'attesa di quel fausto giorno. «Vedrete che uomo squisito, e i suoi quadri vi ammalieranno. Naturalmente non posso competere con i grandi collezionisti, ma credo di possedere io il maggior numero dei quadri preferiti dall'autore. Vi interesseranno ancora di più venendo da Balbec, visto che la maggior parte sono marine». Madre e figlio, tutte e due col loro marchio vegetale, ascoltavano devotamente. Si capiva che casa loro, a Parigi, doveva essere una specie di tempio di Lacy Danea. Templi di questo genere non sono privi di utilità. Quando il Dio ha dei dubbi su se stesso, tappa agevolmente le fessure della sua opinione con le testimonianze irrecusabili di esseri che hanno votato la propria vita alla sua opera.